A bordo campo di Dario Ricci. Ospite d'eccezione oggi a bordo campo. Beh, siamo soliti parlare di sport e non solo, e allora nostro ospite è il numero uno dello sport italiano. Benvenuto Gianni Petrucci, presidente del Comitato Olimpico Italiano. Buongiorno. Allora, presidente Petrucci, tanti temi in ballo in questo momento per lo sport nazionale, proiettato verso Londra 2012, verso la candidatura olimpica di Roma 2020, ma guardiamo all'attualità, quelli che sono anche gli spunti, ahimè certo dolenti, che arrivano dalle notizie più recenti, e parlo dell'ennesimo caso Balotelli. In questo senso, quanto avvenuto a Klagenfurt, la partita Italia-Romania, gli ultra Italia che hanno dato spettacolo, se così si può dire. Presidente, un suo commento sull'accaduto, e poi entriamo in particolare su quello che sta facendo anche il CONI per cambiare la cultura sportiva di questo paese e formare una cultura sportiva. Ma per quanto riguarda l'episodio, ne stiamo parlando oramai da mesi, se non da anni. Questi sono episodi certamente deprecabili, ma io ritengo che, come in tutte le cose, non è che si debba esprimere il proprio punto di vista personale, perché chi deve intervenire, e certamente lo farà con grande determinazione, è la Federazione della Gioco Calcio. Io sono certo che il Presidente Abete e i suoi collaboratori troveranno i giusti sistemi, i mezzi, e hanno le misure per far sì che questi episodi non accadano, perché non è facile nemmeno fermarli. Però la Federazione della Gioco Calcio è una tale organizzazione per cui qualsiasi mio suggerimento creerebbe certamente imbarazzo, creerebbe certamente discussioni inutili, e la Federcalcio, che deve intervenire, sono certo che lo farà nelle sedi opportune. Più in generale, però, è un fenomeno che preoccupa soprattutto nel mondo del calcio, e che si innesta su una serie di problemi come quello delle strutture, degli impianti, degli stadi ormai vetusti. Ecco, forse si può arrivare a un mix di interventi, no, per migliorare il quadro generale del nostro calcio. Ma quello degli stadi è un discorso vecchio, trito, non c'entra. Per me non c'entra, anche perché peraltro è capitato all'estero, dove gli stadi non sono certamente quelli degli italiani. No, questo è un fenomeno di cultura, un fenomeno di mentalità, è un fenomeno becero, un fenomeno di persone che vogliono scambiare una manifestazione sportiva per loro sfoghi personali, e non si sa dove vogliono arrivare. No, gli stadi non c'entra niente. Ormai siamo veramente banali, seguitando a dire ogni volta che gli stadi sono quelli che ci hanno visto campioni del mondo, sono quelli che hanno visto vincere scudetti, sono quelli che hanno fatto record di incasso. Oggi si mettono tutte scuse, vedo che ancora una volta si danno lezioni che negli stadi succedono incidenti. No, negli stadi non succedono incidenti, sono fuori gli stadi che succedono incidenti, per cui non sono d'accordo. Da questo punto di vista, forse anche il dialogo con le società potrebbe essere ancora più profondo, no? Abbiamo visto le divisioni, le spaccature in merito alla tessera del tifoso. Quali potrebbero essere gli scenari futuri e futuribili in questo senso? Ma le società cosiddette mature ce l'hanno sempre avuto con i propri tifosi, nemmeno penso che sia questo. E oramai è un fenomeno per cui ogni società, ogni stadio ha il proprio gruppo di tifosi che pensa di essere originale. Io dico che la destra del tifoso è una cosa che abbiamo condiviso con il ministro dell'interno e con il capo della polizia. Oramai c'è, anche il discuterne ritengo che sia inutile, per cui la destra del tifoso c'è, è inutile discuterne e si deve applicare. Chi non la vuole, pazienza, non verrà allo stadio, ne faremo a meno. Diciamo, forse la risposta più efficace a tutta questa situazione l'ha data proprio lo stesso Mario Balotelli, no? Ricordando a tutti sommessamente che l'Italia multietnica c'è già, e forse proprio lo sport è cartina di tornasole in questo senso, no? E con i suoi campioni, lo sport italiano. Ecco, questo la condivido, il fatto stesso che l'abbia detto Balotelli. Devo dire che Balotelli, proprio in quest'ultimo periodo, proprio in occasione della partita, prima e dopo la partita, ha fatto dichiarazioni distensive, ho molto apprezzato e sono molto contento. Questa multietnicità c'è sempre stata, se vi ricordate facemmo Carlton Myers portabandiera, anche quel periodo si parlava, e parliamo di due Olimpiadi fa, per cui oramai la situazione c'è, ma sono certo che la Federcalcio l'affronterà in modo deciso. Non è facile, perché poi la ricetta giusta non ce l'ha nessuno, se non spot o dichiarazioni. Si dovrebbe fare così, c'è chi dice che ci si deve abbracciare, chi dice che si deve interrompere la partita. Sono tante le ricette, io non ce l'ho quella giusta. Quello che invece ha come CONI sono alcuni progetti che state mettendo in campo per costruire una cultura sportiva con radici sempre più solide, no? E faccio riferimento per esempio all'accordo recentissimo col MIUR, col Ministero della Ricerca, dell'Università e dell'Istruzione, che ha dato seguito già a un progetto pilota partito lo scorso anno per l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria. Direi un passo importante questo, no? Noi siamo veramente, presumo, la prima, se non l'unica nazione al mondo che prima delle Olimpiadi già c'ha due medaglie e noi ce le mettiamo al collo, che è quella della lotta al doping e quella dell'alfabetizzazione motoria. Siamo veramente contenti che il ministro Gelmini, un ministro che ha un dicastero così importante e delicato, ci abbia dato ascolto, abbia condiviso il nostro progetto e noi abbiamo condiviso il suo progetto. Per cui è una cosa bella, una cosa affascinante. Oggi il Ministero, in momenti molto delicati anche della situazione economico-finanziaria, ha messo sul tappeto un'importante cifra e è disposta a confermarla ed aumentarla nei prossimi anni, così come il CONI. Per cui questa è la lotta al doping che sarà sempre più concreta e sempre più incessante, se fosse possibile essere più concreta di quello che già stiamo facendo a buon livello in campo mondiale, e pensiamo che queste due medaglie già ce le possiamo permettere. Ah, quello sicuro. Fra poco torniamo a parlare della scuola e dei giovani, giovani talenti. Ne avete parlato pochi giorni fa proprio a Roma negli Stati Generali del CONI. Ma mi riaggancio al discorso doping. Italia in prima fila con una legge penale che in qualche modo ha aiutato anche a risolvere dei casi. Faccio riferimento alla situazione del campione spagnolo Valverde, ad esempio. Ma giorni fa c'è stata, anche settimane fa, anche lo sfogo del procuratore antidoping del CONI, Ettore Torri, no? In merito al ciclismo. Lotta quasi disperata, tanto che varrebbe quasi la pena, ha detto Torri provocatoriamente, legalizzare il doping. Ecco, da questo punto di vista molto è stato fatto in Italia, si chiede però che ci siano regole e anche legislazioni condivise, perché così non è in altri paesi europei. Come vi state muovendo anche a livello di comitati olimpici? Quali strumenti state mettendo in campo per arrivare ad un'effettiva omogeneizzazione di queste norme? Quanto lei dice è vero e io mi auguro, lo dico quasi in ogni mia intervista, in ogni mia esternazione, che quello che noi facciamo, non dico nel numero massimo, ma nel numero minimo di controlli lo debba fare ogni comitato olimpico, ogni nazione, in proporzione ovviamente alla grandezza del proprio sport. Cioè noi non ci rendiamo conto come in Italia sui 12-13 mila controlli che facciamo, la Federcalcio è più di 6 mila abbondantemente, altre nazioni, sia calcistiche che non hanno questo numero di controlli. Da noi i casi possono uscire, nelle altre parti non escono, c'è grande disparità. Questo noi facciamo, io non smetterò mai di fare appelli al CIO, alle federazioni internazionali, perché ci sia un numero minimo di controlli per tutte le nazioni e per tutti gli sport. Parlavamo di scuola e quindi il discorso ben si aggancia a quello dei giovani talenti. Proprio negli Stati Generali del CONI avete evidenziato, dati alla mano, che beh, continuiamo a conquistare medaglie, malgrado la concorrenza internazionale sia sempre più agguerrita, ma l'età media di queste medaglie nei vari sport si alza. Perché è così difficile creare giovani sportivi professionisti di alto livello in questo paese? Perché non è facile il reclutamento, perché oggi ci sono tante alternative allo sport, perché la gioventù di oggi non è come quella di ieri. Dottor Pagnozzi ha detto anche un'altra cosa, sono generazioni che cambiano, ed è vero, ed è vero. E se voi vedete anche le nazioni più forti calcisticamente, come la Francia, e poi hanno quei momenti di blackout naturali, diciamo che sono logici, e in più, ultimo non ultimo, il fatto che aumenta il numero delle nazioni che pratica un certo sport. Per questo ci stiamo attrezzando, per questo abbiamo creato questa specializzazione nella promozione olimpica, per questo abbiamo preso quei grossi esperti con sacchi in testa e per questo abbiamo fatto un accordo con la Ferrari. Parlavamo di donne, beh, donne vuol dire quasi medaglia sicura per lo sport italiano, dal nuoto Federica Pellegrini, Alessia Filippi, al fioretto femminile, al tennis femminile. Era un dato che era già emerso dopo Pechino, puntare proprio sulle donne per rimpinguare il nostro medagliere. Una linea che è confermata dai risultati e in questo senso come si sta lavorando, Presidente? Ma non è che lavoriamo sulle donne piuttosto che sugli uomini. Le donne vincono tanto, prima vincevano di meno. Non è che sono statistiche quasi naturali in tutto il mondo, è così, non è che solo in Italia. Certamente qui abbiamo fatto dei passi da gigante. Certamente le donne hanno quelle caratteristiche che ti portano poi a lottare per una medaglia se non a vincerle. Anche gli ultimi mondiali di scherma l'ha confermato. Ma devo dire che stanno migliorando in tanti settori dello sport le donne. Però se uno mi chiede perché è così, e io rispondo banalmente perché prima non vincevano e oggi che vincono creano notizia. No, non è. La verità sta nell'una come nell'altra parte. Certamente nello sport italiano le donne sono un'importante risorsa. Presumo che alle prossime Olimpiadi i risultati potrebbero uguagliarsi, però diciamo che le risorse dello sport italiano sono tante, gli uomini non deludono quasi mai e siamo sempre tra i primi 6, 7, 8 posti al mondo. Io mi auguro di confermare tra i primi 10 anche alle prossime Olimpiadi. Non sarà facile. A bordo campo. Presidente Petrucci, parliamo di calcio ancora, ancora sul tavolo il tema sciopero dei calciatori. Lei insomma è osservatore esterno ma attento, è una situazione che però in qualche modo testimonia di una tensione che c'è tra le leghe e anche le federazioni, no? Nella gestione dello sport come evento, come business. Una visione futuribile quale può essere? Ma io lo ritengo fisiologico questo. Si sapeva che alla scadenza del contratto collettivo le parti avevano idee discordanti, perché erano già maturate nel corso degli anni le discussioni tra i calciatori, tra le società, tra la federazione e la Lega. Però noi abbiamo la fortuna di avere persone responsabili nei diversi settori, da Abete a Beretta a Campana. Grosso è stato recentemente eletto presidente mondiale dei calciatori e quindi hanno la esperienza, la maturità e certamente la voglia di non far fare questa brutta figura al calcio, perché non è uno sciopero, è lo spostamento di una giornata di campionato, ma sarebbe veramente brutto. Ho piena fiducia in Abete e ho piena speranza che questo avvenimento, cioè questo spostamento di giornata di campionato, non accadrà. Presidente Petrucci, torniamo a parlare di Olimpiadi. Pochi mesi fa abbiamo festeggiato il 50° anniversario di Roma 1960 e abbiamo tutti nel cuore e negli occhi la speranza di vedere un'altra Roma, Roma 2020. Ecco, sciolto il nodo della candidatura italiana con Venezia, con le annesse polemiche, il progetto Olimpiadi a che punto è? Sembra un po' essersi fermato in qualche cassetto. Ma questa è una battuta di Carraro, non si è fermato in nessun cassetto, Carraro lo sa. Noi dobbiamo renderci conto della situazione politica che attraversiamo e per cui la persona su cui tutti condividiamo, Gianni Letta, ha impegni ben più importanti in questo momento di presiedere il Comitato delle Olimpiadi di Roma. Io sono certo che quando la situazione si normalizzerà e noi potremo avere un discorso con le parti interessate, col sindaco Alemanno mi sento spessissimo, ma anche con le altre persone, un rapporto buono e corretto, la situazione si chiarirà. Roma è partita con grande anticipo, è l'unica candidata ufficiale, io sono sempre convinto che abbiamo delle buone chance, anche se non sarà facile, per cui se perdiamo 20 giorni, un mese e mezzo e 2 mesi non succede nulla. Questo allarmismo non lo condivido proprio. È anche vero che si potrebbe fare il discorso opposto, no? In una situazione politica così complessa, intricata, potrebbe essere lo sport, avendo un progetto già così ben definito, un obiettivo così alto, a indicare una strada, no? Come dire, Roma comunque, Roma 2020 è terreno condiviso e quindi qualsiasi cosa accada, qualsiasi scenario ci sia, si va avanti a passo spedito per quell'obiettivo. No, ma non è la situazione, perché tutti i gruppi parlamentari, tutti i partiti, sia di governo sia di opposizione, bipartisan è stata la candidatura, tutti hanno appoggiato Roma, Roma l'appoggeranno anche dopo qualunque quadro politico. Questo quadro politico ci sta dando una grossa mano, ma devo dire che la stessa opposizione ci sta aiutando, per cui non è che cambiando qualcosa cambi la candidatura. Roma sarà portata da tutto il paese, abbiamo buone chance. Io non creo allarmi e allarmismi. Ecco, invece questa candidatura sudafricana, che ancora deve focalizzarsi in un nome, in una città ben definita, può essere pericolosa, visto che comunque i mondiali sudafricani hanno avuto un buon successo e soprattutto c'è la tendenza in queste occasioni adesso a premiare appunto i paesi e le realtà continentali emergenti. A me è piaciuto quel film di Nanni Moretti che diceva seguitiamo a farci del male. Nessuno ha detto di ufficiale che sarà candidato al Sudafrica. Noi siamo l'Italia quella che candida il Sudafrica, perché non hanno detto nulla. Noi seguitiamo a candidare nazioni che non hanno detto nulla. Riteniamo che sia un vantaggio per noi, ma riteniamo, io almeno ritengo, che ci facciamo del male, perché nessuno ha detto. Quando ci sarà e ci confronteremo, non siamo secondi a nessuno nel mondo come organizzazione. Tra l'altro lei ha recentemente presentato proprio ufficialmente la nostra candidatura ad Acapulco. Ecco, ci racconti un po' qual è l'atmosfera, perché Roma suscita emozioni e fascino, immagino. Ma io posso raccontare le mie sensazioni dal punto di vista, poi chi non mi condivide dirà che non è vero. Io però c'era il dottor Pagnozzi, c'era la dottoressa Ciuffetti, c'era Antonio Rossi, c'era Di Tommaso, persone che hanno avuto e hanno grande esperienza di Olimpiadi. Devo dire che Roggen simpaticamente ha sentito le nostre idee, i nostri programmi. Non dico che Roggen sta con noi, perché non posso dirlo, perché non ce l'ha detto, ma certamente gradisce che si candida una nazione come l'Italia, una nazione come l'Italia candida una città straordinaria come Roma, che non sta a me dirlo, è famosa in tutto il mondo ed ha chance, ripetendo sempre che però è anche difficile. Sembra buona però la proposta, forse da accogliere, di questa commissione trasparenza, no? Spesso all'Italia è associato purtroppo l'idea di organizzazioni elefantiache, investimenti magari non trasparenti o sovrastimati rispetto alle reali necessità. Beh, improntare subito alla massima trasparenza conti, bilanci e numeri sarebbe già un ottimo biglietto da visita. Certo, questo è quello che faremo quando avremo una situazione adesso sulle persone sulle quali poter contare, perché è chiaro che se si parte oggi facendo questo e non facendo il comitato promotore si crea in genere confusione. È una cosa logica, giusta, l'avevamo detto insieme al sindaco Alemanno quando abbiamo presentato la candidatura, lo seguitiamo a dire. Io ritengo che nei prossimi giorni, se non le prossime settimane, noi potremo già contare su una squadra che possa lavorare per questo. Presidente, le chiedo ancora, sicuro che poi non andremo magari a bruciare un grande sforzo come accadde per la candidatura sempre di Roma nel 2004, con quei rigurgiti secessionisti, divisionisti che prima o poi potrebbero ritornare? C'è compattezza dietro questo nome una volta sciolta la diatriba candidatura con Venezia? Ma certezze non ne ho mai, io le certezze ce l'ho solo su me stesso, anzi ho tanti dubbi io, chi ha certezze non è felice su questa terra. Ma oggi siamo compatti, il percorso è lungo, mancano circa 3 anni per l'affidamento della città, per la scelta della città, e per cui in 3 anni certamente potrebbero anche nascere delle discussioni. Laddove fossimo scelti ci sarebbero altri anni, 7 anni, poi per avere questo sogno, il coronamento di questo sogno. Oggi abbiamo questa squadra compatta, almeno la compattezza parla del sindaco di Roma e del sottoscritto. Per il futuro non posso prevedere niente, però quello che conta è oggi. Oggi ci sono buone chance di compattezza. Presidente Petrucci, chiudiamo con una domanda. Abbiamo parlato del futuro, Roma 2020, prima avremo Londra 2012. Beh, allora, 3 assi su cui scommette a occhi chiusi il presidente del CONI in vista di questi giochi attesissimi? Ma diciamo, io non faccio previsioni, io dico che lo sport italiano è sano, lo sport italiano è vincente, le Olimpiadi di Roma saranno difficilissime perché vedrete quante sorprese di altre nazioni che verranno alla ribalta. Ogni Olimpiadi sono record di nazioni su nazioni, avete visto quante isole hanno avuto medaglie d'oro. Ma noi ci presenteremo sempre con una buona squadra. Si dice che adesso nello sport di squadra non siamo a grandi livelli. Devo dire che io sono parzialmente ottimista, perché vedo che la pallanuoto sia al maschile che al femminile sta ritornando. Ho fiducia nella nazionale di basket, nonostante siamo stati scelti in extremis per la qualificazione. La pallavolo, sì, non ha vinto una medaglia, ma è arrivata quarta o quinta. Manca solo il calcio, e poi potrebbero anche esserci sorprese di federazioni che non si sono mai qualificate, per cui i conti si fanno fra un anno dopo che ci saranno le qualificazioni, però le guardo con cauto ottimismo. Grazie Presidente per essere stato ospite di A Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci, come tutti i programmi di Radio 24, dal nostro sito internet www.radio24.it e potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto da Dario Ricci. We'll be right back.